Il mio obiettivo è mandare in merda la vostra trasmissione, poi cercare di fare con gli altri. Lei manda in merda. Volete mandare in merda gli altri? Mandate in merda voi! Io sono più bravo di voi! Sì. Vi mangio vivi! Certo, certo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. L'altro giorno su un blog di femministe c'era una che ce l'aveva a morte con Cruciani e ha detto che la zanzara è una trasmissione nichilista, cinica, anticlericale, volgare, provocatoria, ignorante, qualunquista, pornografica, irrispettosa e maschilista. Io ho potuto soltanto risponderle sì, ma anche dei difetti. È da tre giorni che parlo come il mago Ruggero, fermatevi. Sì, io vedo molto negativo. Non scordatevi il numero del cuore, 393 71 71 701. Allora ragazzi, a riprova del fatto che la gente non sa per cosa cazzo si va a votare il 4 dicembre, sto parlando del 4 dicembre, manca un mese e mezzo e già non ne posso più, sentite cosa dicono in un mercato, per strada, adesso non so bene, in Puglia, alla domanda lei che cosa voterà, sì o no? Che cosa voterà per il referendum del 4 dicembre? Nessuno. Ma lo sa perché si vota? Neanche, non lo so, non lo voglio neanche sapere perché è tutta una massa. Io perché voterei con Renzo no, sicuro, voterei con almeno 5 stelle. Ma no, ma il 4 dicembre si vota per la riforma costituzionale. Ah vabbè, non so dirti in questo momento a chi dovrei votare. È un sì o un no? Sì, un sì, un sì. Signore, che cosa voterà al referendum del 4 dicembre? E di che cosa, scusami? Il referendum costituzionale. Il referendum? È ambiguo perché cioè non ci credo né a destra né a sinistra né al centro. Ma voterà sì o no? Non lo so, no, sicuramente no. Sì, no, una che dice 5 stelle e poi dice voto sì. Cioè, ragazzi, siamo a questo livello, ma di che vogliamo parlare, dai? Però restiamo su questa roba del sì e del no, perché questi qua del sì... Più tardi sentirete avvelenatissimo il mio amico Telese su questo. Cioè, quelli del sì cercano di arruolare anche Maradona. Maradona è in Italia per la partita del cuore di stasera, con la, come dire, con la benedizione di Papa Francesco. E il signor Maradona si allena in palestra, viene avvicinato da una ragazza che si chiama Olimpia Troili. Lo avvicina, una che fa scherma e anche una, non so che cazzo è, una giurista, una che si occupa di queste cose, una militante del sì. E lo recluta, gli fa recitare quello che è lo slogan del sì, basta un sì. Maradona ovviamente non sa una mazza, ma non perché, sì, cioè, non se ne occupa, normalmente non si occupa di Zagrebeschi, il signor Maradona, non si occupa di Renzi, se ne fotte del referendum, eppure viene reclutato. Ciao, sono qui con il grande Maradona e sono del comitato dei giovani giuristi per il sì e gli chiedo solo una cosa. Soltanto dire sì. Basta un sì. Grazie Diego. Grazie a te. Ma grazie cosa? Ma grazie un cazzo? Grazie cosa? Che gli fai recitare, gli fai dire basta un sì quando Maradona non sa niente. Ovviamente Maradona, basta un sì. Dai. Allora, basterebbero queste frasi della Boldrini per parteggiare per Trump. Anche la Boldrini parla di Trump, delle battute di Trump. Ora che cazzo gliene frega la Boldrini, presidente della Camera, terza carica dello Stato, di esprimersi su Trump? Perché? Qual è la forza interiore? Qual è lo stimolo? Le battute sessiste o cosiddette sessiste. No, non sopporta Trump come personaggio perché secondo lei maltratta le donne. Allora si deve esprimere per forza, perché se non c'è, come dire, no, una quotidiana esternazione sull'universo mondo, sulla politica americana, sulla politica italiana, eccetera, la ragazza non è contenta. Quanto sta emergendo adesso dimostra una totale mancanza di rispetto da parte di Trump verso tutte le donne, non solo quelle americane. E io penso che nel 2016 tutto questo sia intollerabile. Tutto questo sia intollerabile, niente di più banale, niente di più. È intollerabile la mancanza di rispetto a tutte le donne, le battute di Trump. Sono insopportabili, ma a parte che non sono affatto battute, cioè non erano battute per niente, cioè non ci sono battute, ci sono delle frasi di 11 anni fa, di 10 anni fa, ma anche fossero di 6, 4, 5 anni fa, dette in alcuni talk show radiofonici, cioè dove ne ha dette di tutti i colori. Trump è andato a parlare di pompini, parlava di sesso, parlava di qualsiasi cosa anche nei minimi dettagli, perché gli piaceva così, perché era fatto così, era uno che era un esibizionista, è ancora un esibizionista. Oggi ovviamente non racconta le stesse cose, purtroppo. Queste battute forse potevano andare bene negli anni 50, forse, non lo so, io non ero ancora nata, ma penso che oggi siano assolutamente insopportabili. Allora, non sono battute, non sono, sono frasi dette da lui, frasi, non sono battute. Quando uno dice un VIP si può permettere tutto con una donna, non è una battuta, non è un comico Trump, non fa battute, dice quello che pensa sulle donne, sul sesso, sugli uomini, gli uomini ricchi, cose peraltro abbastanza normali, scontate, non dice niente di particolarmente sconvolgente, dice quella che è la realtà. Allora, cosa succede in Parlamento? A un certo punto Brunetta e Renzi, spettacolare, Brunetta e Renzi, sentite. Grazie signora Presidente, signor Presidente del Consiglio. Mi permetta di rivolgermi direttamente a Renata? Signor Presidente del Consiglio. Per favore. Quella è la povera Polverini, Renata Polverini gli dice: shh, Renata, parla Brunetta. Siccome parla Brunetta, Renata Polverini. Shh. Ma si rende conto di quello che sta dicendo? Gruppi di lavoro per l'Europa 2017. Si metta tranquillo, signor Presidente del Consiglio. Lei non ci sarà. Renzi su Brunetta, bellissimo. L'onorevole Brunetta, evidentemente giù di morale per l'ennesima mancata assegnazione del Nobel, che anche quest'anno incomprensibilmente non è andato da quelle parti, ha espresso, colleghi, ha iniziato, colleghi, l'onorevole Brunetta ha iniziato il suo intervento dicendo: caro Presidente, lei ha parlato del nulla. No, non stavo parlando di lei, Presidente Brunetta. Stavo cercando di affrontare un tema, colleghi, di discussione un pochino. Colleghi, per favore. Bellissimo, non parlo del nulla. Non parlo di lei. Poi però Renzi dice: scusate, non so in che occasione, credo ieri a Politics, dove praticamente l'ascolto l'ha fatto lui, e scuse con Marino, ma si è dimesso lui. Vabbè Renzi, però non ci piglia per culo, cioè si è dimesso perché l'avete fatto dimettere, l'avete costretto con una manovra dall'alto a prendere atto che l'avreste sfiduciato. È vero, non c'è stata la sfiducia, ma ci sarebbe stata. Lo avete fatto fuori, dai, con un colpo di mano, come avete fatto fuori Letta, avete fatto fuori pure Marino, ma non c'è niente di male. È la politica, ci sono i coltelli, ci sono le trame, ci sono le congiure. Con una congiura avete fatto, non una congiura sanguinosa, una congiura politica, avete fatto fuori un sindaco di Roma. Dai, ma non c'è niente di strano. Non è che dice si è dimesso lui. Si è dimesso lui perché avete fatto fuori voi. È come uno dice davanti al protone di esecuzione. Eh sì, però uno poi si è sparato in testa. Beh, d'accordo, ma quello c'era il protone di esecuzione. Gli avete detto prendi la pistola, che fai? Cioè, uno, immaginate, no, un condannato a morte là davanti. Cioè, condannato a morte col protone di esecuzione, che fai? Sparano loro o fai te? No, forse preferisco farlo io. E si spara. Sì, d'accordo, si è sparato lui. Però poi davanti c'è... l'alternativa era il protone di esecuzione pronto. Renzi, che ci dice del sindaco di Roma Marina, cacciato con dimissioni notarili e ora risultato completamente innocente? Si vuole scusare? Prego? No, che cosa c'è, di che cosa stiamo discutendo? Marino si è dimesso lui. Poi ha ritirato le dimissioni. Insomma, dimesso lui, mi sembra. Scusate, manca. Scusate, io vi prego, se volete buttarla sulla battuta tra di noi, non ho alcun problema. Avete sentito la Berlinguer in sottofondo, eh? Sentite, Renzi Berlinguer sulle telefonate. Ora qui non c'è bisogno della telefonata di Renzi, che sarebbe clamorosa, no? A un direttore di un telegiornale per dire fai quello, fai quest'altro. Perché ovviamente non avviene così, avviene in un altro modo. Ha mai ricevuto una telefonata? Mi scusi, ha mai ricevuto una telefonata da me su come fare il TG? No. No, lo dica, se ha ricevuto, Marino, ha ricevuto una telefonata. No, in generale, da me, ha mai ricevuto una telefonata? Da lei personalmente? No, mai. Nel modo più categorico. Ma non solo, neanche dicendo da lei personalmente. No. Sta dicendo da lei personalmente. Comunque, non entriamo io in questa rispondo questione. Di me personalmente. Certo, lei personalmente. Non è che le dico quante telefonate ho ricevuto dai giornalisti io. No, no, per da lei personalmente. Ed ora Zanzarosi, il momento più atteso, il traffico! La Zanzara. Allora, a proposito dei termini che vengono usati, no? Troia, puttana, eccetera, ho già detto più volte come la penso su questo, no? Che non è un'offesa dare della troia o della puttana a qualcuno, a meno che non ci sia un contesto offensivo, no? Per cui due uomini che sono, in quel caso, rinchiusi dentro il Grande Fratello, ma insomma, a prescindere da quello, che parlano tra di loro, possono usare nei confronti di una donna anche termini di questo tipo. Ma usano questi termini non per insultare, anzi per glorificare... per glorificare le qualità sessuali di una donna, le potenzialità sessuali enorme, la potenza sessuale di una femmina. E ci voleva anche Sgarbone a completare questo quadro. Senti. Altri non possono dire quelle cose, perché altrimenti dice ma ha detto che quella è una puttana. E se è una puttana come la devi chiamare? Buono, come la devi chiamare? Buono, tecnicamente buono. Parlando. Dice no, è una fedifraga. Bravo. E questo vale. Fedifraga. Fedifraga. Fedifraga. Fedifraga. Troia. No! Troia. Vittorio! Se dico, come si diceva una volta, finocchio no, però omosessuale sì. Omosessuale serve a distinguere e a mettere in un ghetto uno che ha un sesso. Quindi che è il suo. È comunque già una ghettizzazione. Cioè qualunque cosa tu dica, che dica gay, che bello gay, è omosessuale, no, frocio. E allora dici frocio, lo rispetti, perché non hai paura delle parole. Allora ragazzi, questo mi sembra chiarissimo, non avere paura delle parole, cioè saperle dire senza dire brutto frocio di merda, brutta checca schifosa, mi fai schifo, sei orrendo, allora lì può avere anche un significato offensivo. Se uno dice frocio, io sono frocio, tra l'altro si chiamano così tra di loro spesso, no? Come troia, sei una gran troia, ma significa che sei una che fa sesso in maniera incredibile, che fa delle porcate pazzesche, è il modo di vero di dire le cose, non quello finto. Però c'è una cosa che mi fa incazzare e sono quei deputati che non mollano il vitalizio. Uno di questi è l'ex sindaco di Taranto, che ne ha combinate di tutti i colori. Più condanne, anche se lui dice di no, condanne oltre i 2 anni, come è previsto dalla legge. Gli hanno tolto il vitalizio, cioè dovrebbe avere fatto un sacco di soldi con tutto quello che ha combinato, 2000 e rotti euro di vitalizio. Gliel'hanno tolto in quanto condannato e lui è incazzato come una bestia. Come una bestia, chiamiamolo, vi prego, Giancarlo Cito. Giancarlo Cito, ma ha davvero bisogno di quei soldi, Cito, per campare? È una questione solamente di... chiamatelo, dai, ragazzi, telefono. Dai, qui là, ecco. Dai, dai. Sì, pronto? Sì, Giancarlo? Chi è che parla? Sono Cruciani, ciao. Pronto? Ciao, come stai? Insomma, no. Penso che sto bene. Se, volevo capire com'era il tuo stato d'animo dopo questa cosa qui del come si chiama, del vitalizio. Qual è stato d'animo? Il mio stato d'animo è che è arrivato a un certo punto è un atto di abuso in atti d'ufficio che è stato fatto e non poteva essere fatto. Punto. Perché non poteva essere fatto? Spiegami. Ma perché lo dice la Costituzione? Beh, innanzitutto non è vitalizio, è dal 2007 è pensione. Seconda cosa, l'ha fatto effettivamente la Boldrini, la presidenza della Camera. Ma che giornale è questo, scusami? No, la radio è Cruciani, Radio 24, ciao. Ah, Radio 24. Sì. Poi per quanto riguarda effettivamente la Boldrini non poteva farlo, l'ha fatto lei da sola, perché dicendo è arrivato a un certo punto che il vitalizio doveva essere tolto. Sì. Una persona che dopo 25 anni viene assolto, che il fatto non sussiste, ma a prescindere quello, chi dà le pene accessorie è il tribunale, non li dà la Boldrini o la Camera dei Deputati. Per cui tu già vuoi fare ricorso, già stai facendo ricorso? Ma no, il ricorso è già in corso. Scusa, ma Giancara, ma te, sti soldi, quanti erano questi del vitalizio? 2.088 euro al mese. Che ci facevi con questi soldi? Ma non mi dirai che fai la fame, no? Sì, un altro poco vengo a mangiare a casa vostra. Ma no, è una domanda seria, cioè sono soldi che... Una domanda seria è questa, ma Taranto, a parte il fatto che Taranto è una città che è morta economicamente, perché la gente purtroppo sta male, gente che va a mangiare alla mensa dei poveri, è qualcosa di impressionante, Vabbè, allora... Ma la situazione di Taranto è bruttissima. E nella situazione effettivamente della situazione di Taranto, ma che c'entra? potete immaginare che tutti i cittadini di Taranto stanno in queste condizioni, tranne chi ha i soldi. Scusami, ma tu hai bisogno di questi soldi per campare o no? Avevi bisogno o no? Io ho bisogno di quei soldi perché sono soldi che io ho acquisito avendo un titolo da... quello è un altro discorso, ma per campare, cioè per la tua sopravvivenza adesso io chiederò a Boldrini per andare a mangiare a casa sua. Ma questa è una battuta oppure seriamente hai bisogno? No, è una domanda seria, dai. Puoi immaginare effettivamente che cosa significa per una persona togliere 2.088 euro con la vita che è cara nelle varie città? Vabbè, ma tu qualche soldo l'avrei messo da parte, no, Giacca? Senti, io ho lavorato 50 anni, in questi 50 anni ho lavorato, punto e basta, quei soldi sono soldi che a me spettano per legge. Però tu mi devi dire una cosa, ogni volta che vai dalla D'Urso ripeti sempre la stessa cosa, cioè il fatto che non sei stato condannato. Amico mio, le condanne ce l'hai oltre 2 anni, su, dai, e non possiamo dire che non ce l'hai. Se vuoi che io ti chiudo il telefono, no, ti chiudo il telefono. Non voglio. Se tu stai parlando perché devi rompermi i coglioni, non ti sto ti chiudo il telefono. Gianca, non ti sto rompendo i coglioni. Niente, anche a me ha attaccato il telefono. Allora, caro Cito, però, quando uno comincia a parlare delle tue condanne, perché ci sono le condanne, poi a me puoi fare tutti i ricorsi che ti fa. Potresti anche avere ragione, cioè perché togliere il vitalizio solamente a quelli che hanno una condanna superiore a 2 anni? Puoi anche avere ragione, c'è anche una discriminazione, ma chi se ne frega, ce l'hai ste condanne o no? Sì, ce le hai, non puoi continuare a dire no, non ce le ho, eccetera. Sì, in qualche caso ti hanno assolto, in altri casi ti hanno condannato. Allora, prima di prendere le vostre telefonate, Corinne Clery, ve la ricordate? Sì, Corinne Clery. Mi faccio prendere il sangue e me lo metto in faccia. Ma che cazzo serve? Io faccio delle cose molto carine. Prendono il mio sangue, lo shakerano e poi me lo rimettono sulla faccia, che è il questo mio sangue. Questo non credo che lo faccia un estetista. Lo fa un dottore. Ecco. Lo fa un dottore. Mamma mia, ragazzi, shakerano il sangue e lo mettono in faccia. Spiegatemi voi, perché veramente io non lo so, ma sono ignorante io, magari serve prendere il proprio sangue, fare lo shaker e poi metterselo in faccia. La Crucia, motta il conto soffitto del cesso prima che te beccano pure a te. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, è Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. I faccia a faccia, le inchieste, dentro la notizia e gialli della storia. Poi i libri, gli appuntamenti, il cinema. Tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni e critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Il segnale orario vi è offerto da... L'impressionismo di Zan Domenechi, in mostra a Padova, Palazzo Zabarella, fino al 29 gennaio. La Zanzara. Spero di vedere Mauro e Corona nella stessa galera. Che bello, sarebbe un sogno. In galera, in galera, in galera. Giusto per quel decerebrato di Mauro poteva essere un idolo Corona. Tra decorticati, ci si intende. Coglione. Con i controsoffitti italiani ci si risana il debito. Allora ragazzi, a proposito di ieri, di quello splendido momento di combattimento, di radio, di forza, di scontro, direi quasi, non dico ideologico, quasi esistenziale tra Mauro da Mantova, l'evasore, l'elogio dell'evasione fiscale, quello che dice Corona è un genio, Corona è il mio idolo, e Luca Telese, supportato dal sottoscritto in questa occasione. Mauro, dimmi. Ascolta, scusami. Oddio. Perché ti accanisci contro Corona, che per me è... cioè, per me è un idolo, perché... Beh, un idolo avuto... perché? Perché hai evaso le tasse, perché cosa? Ha avuto perché il coraggio di mettersi contro quella marmaglia che ci governa. Ma ha commesso un reato o no? Ha commesso un reato o no con 1.7 milioni? Ma vaffanculo, che lei che c'è un testa di cazzo! Leccaculo! Sei un leccaculo e sei un doppio giochista! Doppio giochista! Ma di chi? Ma di chi cosa? Pago le tasse, caro mio! Pago le tasse, hai capito? Ma pagare te le tasse, imbecille! Che non le paga nessuno! Pagale! Pagale! Pagale tu, imbecille! Paga le tasse, Mauro! Paga le tasse, Mauro! Paga le tasse! Neanche Marco! Ecco, Evaso! È andato a pizzicare! Cosa mi fa dire che sono titolare di nulla? Cogliere! Appunto, sei titolare di nulla, questa è la mia. Nulla tenenti con la Ferrari! Siete in nulla tenenti con la Ferrari! Perché? Perché abbiamo lo stato ladro! Evasore, vai via! Ma qualcuno, coglione! Puzza! Ti aspetto di me, ti strappo quel pizzo che hai, ti strappo! Ma perché? Perché strappi? Cosa strappi? Ma perché? Perché paga le tasse? Perché paga le tasse? Perché? Mi fai il tetto della quaglia, un po' con Berlusconi, un po' con... Ma quale Berlusconi che non l'ha mai votato? Al contrario di te, pago le tasse, hai capito? Paga il coglione, non ho famiglie valle! Ma perché non paghi le tasse? Perché non paghi le tasse, Mauro? Perché io non sono un coglione! Ah, così, uno che è un coglione paga le tasse, secondo te? In Italia è un coglione uno che paga le tasse! Ancora, se ne è andato a fare la spesa l'Ipercop? Ma sì, mi sarà successo di andare a fare la spesa l'Ipercop, che c'entra? Guardati lo scontrino! Guardati lo scontrino, se è fiscale o no! Guardatelo, coglione! Ma vai a fare l'unico, vai! Ma vaffanculo, non è fiscale! Perché non paga le tasse? Vai a fare il 7:40! No, fate il culo voi, coglioni! Allora ragazzi, vi siete mai chiesti in queste ore perché il perché di quel questionario in Inghilterra in cui hanno aggiunto italiano a italiano per iscriversi alle scuole, per gli stranieri. E italiano-napoletano, italiano-siciliano, ci hanno fatto quella roba lì, poi adesso dicono che gli inglesi che la vogliono correggere, eccetera, eccetera. Ma per un motivo molto semplice, perché nella loro testa da imbecilli sono le due ragioni da dove provengono, secondo loro, le persone potenzialmente mafiose o camorriste. Cioè, perché proprio Campania e Sicilia mettono, no? Cioè, Campania perché Campania si chiama Camorra e Sicilia perché significa mafia. Solo per questo. Stefano da Roma, vai Stefano. Ciao Giuseppe. Dimmi. Allora, volevo intervenire a proposito di quello che hai detto di Corinne Clery. Allora, quella l'ha banalizzata in modo estremo, ovviamente. Ma è una metodica molto importante e seria. Cioè, qual è quella di farsi cospergere? No, ma non c'è nulla da iniettare in questo caso. Questa si fa passare il sangue. In modo ridanciano, ma quello si chiama PRP. È un sistema che significa sangue arricchito di piastrine, che rigenera i tessuti. Li rigenera al punto tale che si usa, per esempio, nelle forme estetiche per le rughe, oppure nel trapianto di capelli. Sì, ho capito, ma che cosa si fa? Si shaker il sangue, non so con che cosa, e ma poi... Ma non si shaker. Vabbè, ma quello, si tratta il sangue? Cioè, si tratta il sangue? Il sangue viene prelevato un po' di sangue, viene messo nella centrifuga, viene aggiunta una sostanza e viene reiniettato dove, per esempio... Ma qui non c'è l'iniezione, qui c'è... Lei dice che viene spalmato in faccia. Ma no, è una stupidaggine, dai. Allora, sono intervenuto proprio per dire questo, perché magari poi... Ma lo fai tu? Io sì, certo. Cioè, lo fai nel senso che lo pratichi o l'hai fatto no. te stesso? Allora, intanto in Italia si pratica solo se c'è l'ausilio di un centro trasfusionale. Io lo pratico, io sono un chirurgo estetico. Dunque, come funziona sta roba? Che cazzo serve? Serve a rigenerare i tessuti, nel vero senso della parola. Cioè, col proprio sangue? Certo, il sangue però arricchito di piastrine. Sangue arricchito di piastrine? No, ma so che si fanno queste cose, ero curioso di capire. Lei l'ha spiegato così, liquida. Lei l'ha spiegato, diciamo... Ma l'ha detto in modo da ridere. Viene tolta la parte molto liquida, rimane la parte molto densa, sarebbe il sangue pieno di piastrine. Ma serve viene per fare i lifting? Per fare i lifting o semplicemente viene reiniettato? No, è come rifarsi il sangue, diciamo. No, è come un filler. Hai presente un filler? Sì. Cioè l'acido ialuronico viene iniettato, riempie i tessuti. Qui è un fatto. È lo stesso procedimento però naturale, avviene tramite il tuo sangue senza altre sostanze. Cosa provoca, diciamo, dal punto di vista estetico fuori? Cioè la pelle più liscia? Certo. Ti tira la pelle? Un miglioramento estremo. Pensa che si usa anche nelle forme quando devono fare gli impianti. Ma pure sul pisello si può fare? No. E che ne so, magari per avere il pisello più giovane, questo, che ne so. Dico questo, no, dico questo per pure quello invecchia, tutto. Quello invecchia, certo. No, vabbè, ma tutto invecchia, ragazzi. Il problema di questa metodica è una sola. Qual è? Che se fra le cellule dove tu vai a iniettare questa cosa dovesse esserci una cellula tumorale di melanoma, tu la metti in attività immediata. Questa è l'unica controindicazione. Quello uno lo controlla, no? Cioè lo controlla prima di fare tutto. Non lo puoi fare. Non lo puoi fare perché le cellule non è che sono visibili. Cioè tu dici, mi faccio la pelle più liccia, però mi posso prendere il cancro, diciamo. Questa possibilità che se gira una cellula tumorale in situ, cioè in via di formazione, che non è ancora manifesta. Ma tu che fai? Come fai? Che cosa fai come chirurgo estetico? Tutto. Cioè, tipo, la cosa che fai di più qual è? Piccole cose oppure cose grosse? Che ne so, i culi, fai i culi? Qui dovremmo parlare tutta la trasmissione. Facciamo i seni, faccio i seni, faccio i disti. Cioè, la richiesta più assurda che ti è stata fatta, qual è? La richiesta più incredibile, più pazzesca? La richiesta più incredibile, mi è venuto un tipo tracagnotto basso che mi ha detto, inizialmente mi ha chiesto, ma lei cosa potrebbe fare per me? E io gli ho detto un paio di cose, gli ho detto che dovrebbe dimagrire, fare un lifting delle guance per migliorare l'aspetto. Sì, del sottomento, eccetera, ed eventualmente un trapianto di capelli. Cioè, praticamente gli ha detto che se deve rifare tutto. Cioè, la cosa drammatica è stata così oppure te butti dal tevere. No, la cosa drammatica è quando è uscito mi ha fatto vedere una foto di un ballerino che va estremamente di moda, un certo Bolle. Sì, e mi ha detto, dottore, estremamente di moda, uno dei più grandi ballerini del mondo, comunque. Sì, no, allora? Esteticamente dico, come modello maschile. Beh, sì, e allora mi ha fatto vedere questa foto e mi ha detto: dottore, ripeto, uno basso, piuttosto sovrappeso. Voglio essere così. C'è la possibilità di diventare così, giochiamo a carte scoperte. No, ma perché non l'hai mandato a fanculo? Scusa, adesso in maniera... praticamente l'ho fatto. Alla come si chiama il medico lì, il dietologo, amico nostro? Lemme. Sì, alla Lemme, capito? Cioè, a deficiente, vattene, va. Cioè, e alla fine che gli hai fatto a questo? Niente, l'ho mandato via. Era uno psicopatico, cioè una persona che non sta bene con se stessa. Tra l'altro, ho scoperto che la gente va in Turchia. La cosa non è nuova, ci fu un servizio da ieri anni fa. E l'altro giorno, un giornale va in Turchia a farsi il trapianto di capelli. Ascolta, il trapianto di capelli in Turchia. Immagino uno in Turchia, trapianto di capelli. Cioè, a parte che oggi qualcuno mi ha fatto una battuta, in Turchia si rischia pure un po', con il rischio di andare lì e ti fai il trapianto dalla gamba, no, e ti invece, scoppia una bomba. Invece hanno un'organizzazione molto buona. Sì, ok, ma problema, perché devi andare, no, in Turchia a farti il trapianto di capelli? Perché costa meno, Italia, è come in Croazia con i denti. Se lo fai in Italia costa 7.000 euro, 6.000 euro. È lì tra i 2.500. Se lo fai lì costa 2.000-3.000. Il problema... Io voglio beccare uno che mi chiama e ti dico: sono andato in Turchia a farmi il trapianto di capelli. È pieno di persone che l'hanno fatto. Il problema è che se hai una complicazione, che fai? Prendi il telefono e chiami il medico in Turchia? Vabbè, ah, quella è la stessa cosa che quando vai a fare i denti in Croazia o in qualche ma paese. È un grosso rischio, cioè voglio dire, la cosa importante è il rapporto. Sì, ma in Turchia non ci penserei ad andare in Turchia a farmi il trapianto di capelli. Poi... Ma utilizzano una tecnica FUE che va molto di moda e ripeto, lavorano sui grossi numeri, per cui fanno questo. Dice discorso. Che ci sono i voli Italia-Istanbul pieni di gente che torna. Di gente che torna ma da Istanbul col completo. Col coso, no? Sì, vanno col pacchetto completo, ma vanno con di gente che torna con la testa coperta. Pacchetto è fatto dall'associazione dei chirurghi, ti regalano l'albergo, il viaggio e il soggiorno. Va bene, ciao Stefano, ciao. Maria Rosaria, Napoli, vai. Ah, finalmente, mi sono stancata. Dimmi Maria Rosaria, dimmi, che è successo? Allora, innanzitutto questa volta parlando di una cosa che faccio già io da 4 anni. Che fai? Queste staminali, io le chiamo staminali. Anche te fai le siringhette? Sì, mi tirano il sangue, lo mettono in delle celluline, con dell'attivatore, lo centrifugano e poi me lo inietto dove? Anche nelle ossa, anche nei femori, nelle ginocchia, nelle caviglie che mi fanno male. Ma non hai chiamato per questo? Perché cosa hai chiamato? A parte il fatto che te fai continuamente de sangue. Io ho chiamato per quel borioso di Trump. Aspetta un attimo, ferma lì. Sì. Cari vegani, per voi ci vuole affan. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la zanzara. Cruciani, quando liberalizzeranno la droga come vuoi tu, verrò io a venderla a Viola. Vedrai che le piacerà, sarà più buona e costerà di meno di quella del negozietto autorizzato. La renderò mia schiava, le friggerò il cervello e glielo farò mangiare alla mensa del CERT. Non c'è nulla di male. Ragazzi, è semplice. Se volete dire quanto sono sporchi neri o quanto rubano i rom o volete mandare a cagare Parenzo in diretta, 800240024. Se invece siete persone più normali, cioè pisciate nel lavandino, andate a mignotte, o volete mandare a cagare Parenzo in differita, 393-717-1701. Siamo al top. Allora ragazzi, avete sentito il messaggio che ho mandato prima? Luca, ci sei? Ma questo malato, allora, che allora ha fatto no, questa cosa contro Viola, no, mamma, con mia figlia, no, ma adesso io lo faccio risentire il messaggio, faccio risentire il messaggio, perché questo deficiente, siccome io sono per la legalizzazione delle droghe, no, su quelle pesanti si può discutere, ma io per esempio farei delle sperimentazioni anche sulla cocaina. Hanno massacrato il sindaco di Messina a Corinti perché è stato se stesso, e a Messina vuole, qui alla Zanzara, ha detto che legalizzerebbe persino la cocaina per combattere le narcomafie. Ne parlava addirittura Escobar nella serie, ma anche nella realtà diceva: se tutto questo fosse legalizzato sarebbe per noi la rovina. Poi si può discutere sulla cocaina, sull'eroina, quello che volete. lo hanno massacrato perché qui alla Zanzara ha detto delle cose sacrosante. Questo deficiente, questo imbecille, questo cretino mette in mezzo mia figlia pensando che la legalizzazione, che non è la liberalizzazione, significa che uno si può drogare più facilmente, capito? Mentre adesso se uno si vuole procurare una droga, tuo figlio Enrico, se si vuole procurare, se tra qualche anno come Viola si volessero procurare della droga, la trova al parco sotto esatto casa, la trova a Piazza Vittorio là sotto. Ma è il tono di questo malato, ma neanche la provocazione, è proprio il tono del malato grave. Aspetta che lo facciamo risentire, aspetta. Cruciani, quando liberalizzeranno la droga come vuoi tu, verrò io a venderla a Viola. Vedrai che le piacerà, sarà più buona e costerà di meno di quella del negozietto autorizzato. La renderò mia schiava, le friggerò il cervello e glielo farò mangiare alla mensa del CERT. Non c'è nulla di male. Vediamo se ha il coraggio di parlare questo imbecille. Attacca, attacca il vile, attacca il vile che mette in mezzo mia figlia perché dice che gli venderà la droga più buona di quella ufficiale, un'altra cazzata. Ma cosa c'entra? Ripeto, c'è un principio molto semplice, non ho paura di parlare di queste cose anche di fronte a mia figlia quando sarà più grande, non ho nessun dubbio. Ho detto, se uno ha la possibilità, oggi tutti hanno la possibilità di farsi di cocaina, adesso io esco da qui, faccio 3 numeri di telefono e mi procuro quello che mi pare, quello che voglio, vado in una piazza, vado in un posto, eccetera, mi procuro quello che mi pare. Vabbè, questo codardo non risponde. Luca Telese con noi, ciao Luca! Hai visto ieri Renzi? Hai visto Renzi ieri a Politics? Ha fatto l'ascolto solo lui, innanzitutto c'era anche... Madonna, ha rianimato Politics, questo è il primo vero obiettivo realizzato dal governo. Quello è vero, ha rianimato Politics improvvisamente. Vabbè, ma al di là di questo, che non frega nulla a nessuno, naturalmente, di Politics è rianimato. È un Renzi che, quando è nell'agone della sua battaglia in quell'ambiente, tira fuori meglio di sé. Su questo non c'è dubbio, eh? Cioè, è bravissimo in queste cose qui. Spettacolo. Allora, due frasi. La cosa sulla Berlinguer, adesso non c'è conflitto di interessi perché lui è abbastanza lucido per non essere, diciamo, di parte, no? Però la questione è molto semplice. La Berlinguer, Renzi dice: ti ho mai fatto una telefonata per influenzare il tuo telegiornale? Ma amico mio, ho detto, Renzi lo sa benissimo che c'è modo e modo per influenzare qualcuno, no? Adesso, a prescindere dal fatto che l'abbia influenzato o meno, non è che c'è bisogno, sarebbe un coglione se facesse una telefonata direttamente a dire: guarda, quel servizio non mi è piaciuto, eccetera, perché sei sputtanato, finito, morto, no? È chiaro che ci sono altri metodi, ci sono altre pressioni che si possono fare, questo mi pare evidente. La risposta di Bianca è stata: lei no. Lei no, cioè altri le telefonate no, o i messaggi, volte. O i messaggi soprattutto. O i messaggini, perché sarebbe da raccontare che quest'estate portavoce di Sensi. No, non credo che Sensi abbia un portavoce. Un messaggino meraviglioso a una chat in cui c'erano quasi tutti i giornalisti politici italiani che suonava così: che ne direste se oggi non picchiassimo un pochetto Di Battista sull'ISIS? Sì. Questa cosa io penso che in America avrebbe prodotto dimissioni, e invece il giorno dopo è uscito su un solo giornale il fatto, ma anche lì un corsivetto, una cosa molto tiepida. E Sensi ha risposto: no, un po' imbarazzato, è stato un errore, era un messaggio che mi ha mandato un deputato e che io ho girato ai giornalisti. Ma stiamo scherzando? Ecco, queste sono le cose, non è che tu però perché hai preso questa battaglia tra il sì e no quasi come fosse una crociata, Luca? Da tempo che te lo volevo chiedere e vorrei che tu lo dicessi qui. Perché per te una crociata importante? Perché non vai a moderare? Perché primo non ho nulla da guadagnarci, no? Ma quello è chiaro, momento, anzi forse è il contrario, tutti dall'altra parte. La seconda cosa è che, facendo il giornalista politico parlamentare dal 1992, credo di essere, come rispetto a questa cosa, come un idraulico che ti dice se funziona o non funziona il lavandino. Quindi io so capire, o presumo di sapere, che, cioè, questa riforma non è funziona. Un po' un'archifesta. Sì, però non c'è solo questo. Secondo me tu ne fai una questione... secondo me è un rischio... La risposta chiave che ha sbagliato Zagrebeschi. C'è un rischio autoritario in questa riforma. Secondo te sì. Da troppo potere nelle mani di qualcuno. Ti dirò di più, forse questo potere non finirà neanche nelle mani di Renzi, ma chiunque finisca in mano a partire da Renzi, io sai che non condivido per proseguire con gli altri è troppo, e quindi meglio che non ce l'abbia. Secondo me invece, se c'è una cosa, io non so ancora come voterò, lo dirò probabilmente negli ultimi giorni, potrei anche non votare, non lo so ancora perché non me ne frega niente, però se c'è una cosa importante che invece dà finalmente il potere a qualcuno, forse Stefano provincia di Roma, anzi no, Pietro provincia di Bari, vai Pietro. Pronto? Pietro, dimmi. Sì, buonasera. Niente, volevo completare il concetto di ieri in merito a Mauro da Mantova. Che vuoi dire? Dai, che vuoi dire, Pietro? Sì, lui in poche parole si fossilizza sul fatto che gli altri riescono a capitalizzare di più di quello che lui riesce a capitalizzare, oltre 1000 euro a settimana di quello che fa, essendo lui un buon prodotto per la Zanzara in quanto rastrella dell'ottimo pubblico allora? Durante i suoi interventi. E quindi, essendo lui un buon prodotto multimediale da supermercato, internet, TV, radio e via di seguito, secondo me va sotto il codice Mamaun, detto cioè? Con slang barese. È un Mamaun. Cioè? Nutrimone. No, quello no. Perché poi Trimone in... Cioè, che vuol dire? Dai, Pietro, che vuol dire? Mamaun è, diciamo, un zimbello, né più né meno, però detto in italiano. Ok. Quindi ragazzi, ognuno ha il suo ruolo. Dai, Luca da Alessandria. Luca. Sì, pronto? Dimmi, Luca, dimmi. Niente, Stefano, provincia di Roma, dai. Ciao Cruciani. Dimmi. Ciao, no, io volevo intervenire per quanto riguardava il discorso Boldrini, che si è intromessa per fattore Clinton sessista. Perché non ha parlato di Trump sessista? No, Trump, perché Trump, sì. Trump, perché non ha parlato di Clinton, che l'ha filato pure dentro ai sifoni? Cioè, nel senso... Era 20 anni fa, povera Boldrini. Se parlasse ora di Clinton sarebbe fuori tempo male. Beh, anche quella di Trump non è che sia recente. Beh, dai, ha detto una cosa, cioè invece Clinton passa da persona per bene quando... A parte che non si candida, Bill Clinton, ma ovviamente si candida Hillary Clinton. C'è una differenza, però in realtà la coppia Hillary Clinton-Bill Clinton si porta dietro su questa questione del sesso un'ipocrisia spaventosa, perché uno dei pilastri di quella che potrebbe essere la prossima presidenza degli Stati Uniti, cioè dire l'ex presidente, è uno che ne ha combinato da questo punto di vista... Una più di Bertone, cioè a me cornificata per me. Boldrini sta un pochino zitto, no, e facesse il suo lavoro e non rompesse cioè? I coglioni. Dimmi. Molto più grave Clinton. È molto più grave Clinton di Trump. Trump è un miles gloriosus che dice a me mi saltano addosso, è facile rimorchiare, mi vogliono tutti. Sì, e poi ne dice anche altre, ma insomma... Perché è ricco, mi scoperei mia figlia, che è una cosa quasi affettuosa che si può dire tranquillamente. Sì, tua figlia diceva, non è che diceva sua figlia, cioè diceva sua... Sì, è diventata buona, cioè è chiaro che è una cosa così, bullesca, ma non è sessista, non è, se no non lo dici all'interessato. Invece Clinton ha approfittato di una posizione di supremazia, certo, per assolutamente, il suo biscotto nella bocca di una seggista, cioè qui siamo molto oltre. Ma stai scherzando? Clinton approfittava in tutte le situazioni, sia da governatore eccetera. Esatto, il vero predatore da questo punto di vista è Bill Clinton. Trump ma è infatti, uno che un imprenditore che scopava, un imprenditore che è quello che mi rode, che Trump uno non gliel'ha detto. Come la morte, diciamolo pure Giuseppe, che era convinto che tutte gli saltassero addosso. Beh, sai che da giovane non era male Trump, non era male Trump da giovane. Se tu vedi... Sì, ma queste frasi sono del 2005, era già un sesso, voglio dire. Però non è quello il problema, non ha approfittato di una stagista della Casa Bianca. Immaginate una stagista alla Casa Bianca. No, ma assolutamente, cioè, non ha approfittato di me. È molto peggio. Anche perché non è che ci sono accuse, ci sono solo frasi, non è che ci sono accuse di violenze sessuali o cose di questo tipo, cosa che invece ha avuto, o comunque di prevaricazioni, cosa che ha avuto invece Bill Clinton. Vabbè, ciao. Crucia Sinalot. La Zanzara. Here we go! Allora, già da qualche giorno c'è questa notizia, caro Telese, il sindaco di Calizzano, dalle parti di Savona, Pierangelo Olivieri, cosa ha fatto? Ha diviso gli autobus in autobus per i migranti e autobus per gli studenti. Autobus per gli studenti. Qualcuno parla di apartheid. Lui sostiene che questi qua disturbano troppo le ragazze. Disturbano troppo le ragazze. Facciamogli una telefonatina, va? Vediamo se risponde. Allora, Olivieri? Sì? Sono Cruciani, ciao. Ciao. Come andiamo? Abbastanza bene, abbastanza. Senti, allora, ma ti accusano di avere fatto una specie di apartheid, di avere diviso in due, cioè di avere diviso gli autobus per gli stranieri, per i neri, per gli africani, per gli zozzoni, in pratica, e l'autobus per gli studenti. Come stanno le cose? Assolutamente no, mi dispiace molto, una bomba mediatica assolutamente infondata. Ma in che senso infondata? È vero che l'hai divisi, però è vero che l'hai messi da parte? Assolutamente no, assolutamente no, non ho assunto non ho assunto nessun provvedimento, non ho fatto nessuna richiesta in tal senso. L'unica dovuta richiesta, che tornassi indietro e farei lì uguale identico, a seguito di una situazione di tensione che mi è stata segnalata dagli utenti. Che fanno? Disturbano le ragazze questi qua? Che fanno? Non ci sono segnalazioni, atti ufficiali, ma... Come non ci sono atti ufficiali? E se non ci sono atti ufficiali, che fai? Prendi provvedimenti, scusami. Ma infatti io non ho preso provvedimenti, non ho prendi provvedimenti. Un'ordinanza. Io ho convocato una riunione con chi gestisce il trasporto. Sì, una cooperativa. Cooperativa. E ho detto, mi viene evidenziato questo, che rientra nel contesto più crescente di tensione in paese, perché ci sono sempre maggiori fatti di violenza all'interno della struttura. E che tipo di violenza? Detto, chiedo alla cooperativa, venerdì 3 dei migranti sono stati trasportati in ospedale con ferite da contusioni fra di loro all'interno della struttura. Sì, ma che c'entrano gli autobus? Spiegami. No, questo però in un paese di 1400 abitanti, questo alle 6:30 del pomeriggio è stato di evidenza pubblica e sta salendo la tensione nella comunità, nel paese. E questo è un dato importante. Ma che c'entrano gli altri? No, va benissimo. Secondo te c'è tensione perché c'è qualche incidente per la presenza degli immigrati, ok? Sì, ma si sono picchiati fra di loro. E si sono picchiati tra di loro, non è che hanno picchiato qualcun altro? No, certo. Bisogna separare gli autobus? Ancora, perché non ci sono stati. Io ho chiesto alla cooperativa, mi viene segnalato un sovraffollamento di un autobus, ce ne sono quattro. Uno mi viene detto che è sovraffollato, che è quello unico che possono prendere gli studenti e andare a scuola. Ma in quell'autobus chiedervi di capire se possiamo usare gli altri, se i ragazzi ospiti della struttura non hanno esigenza di orario per forza di prendere quello, perché se devono prendere tutti per forza quello, chiediamo a TPL di potenziare il servizio. No, però scusa, al di là delle questioni, sindaco, al di là della questione della capienza, mi sembra un po' una marcia indietro. Ecco, sindaco, non è una marcia indietro. Io ho un documento ufficiale. Però scusami, era una prescrizione, non credo che il secolo XIX sia inventato o no. Esatto, tu hai detto che qualcuno ha disturbato delle ragazze sull'autobus, questo l'hai detto, cioè c'è stato qualche cosa? Cioè, questo assolutamente mi è stato segnalato. Ti è stato segnalato, ma è vero o non è vero? Non ho capito. Mi è stato segnalato da persone che erano presenti sull'autobus, ma nessuno ha fatto una formale denuncia. Sì, e questo è un dato. E perché? Non lo so, perché non hanno fatto denuncia? Perché c'è timore, siamo un piccolo paese di 1400 abitanti. E che c'è una, timore una... di quattro disgraziati, non ho capito. Di quattro... No, non sono quattro disgraziati, ma nessuno è disgraziato è oggettivo quello che la nostra comunità da due anni sta facendo a livello di integrazione. Ma che timore c'è a denunciare uno che ti mette le mani sul culo dentro l'autobus? Scusami. Io cosa ti devo dire? Se non lo fanno non li posso obbligare. Io faccio anche l'avvocato, gli ho spiegato delle cose, ma... se non lo vogliono fare, la persona non è mica obbligata. Allora, posso capire, siccome questa cooperativa che gestisce la cosa ha detto che si tratta di apartheid, l'ha detto apertamente. Sì, infatti l'idea del sindaco è da apartheid. E qualcuno ne risponderà. Cioè vuoi denunciare la cooperativa? No, ho detto che voglio denunciare nessuno, voglio capire perché è uscita questa notizia. Nella riunione che c'è stato lunedì pomeriggio alle 5:30. Domanda, non ho capito. Il secolo XIX ha ricevuto una smentita da te che dice non è vero nulla di quello che avete scritto? Ho scritto, infatti oggi sono stati riportati, sindaco, oltre che dal secolo, ben altre notizie sul fatto. Sì, io le parole forti che ho usato sono buon senso e sensibilizzare i ragazzi ospiti della struttura. Secondo io te non ho fatto nessun divieto. No, però vuoi però non prendiamoci in giro. Non prendiamoci in giro. I titoli erano: sindaco vieta il bus ai migranti, disturbano troppo le ragazze. Vuole vietare l'utilizzo degli autobus ai migranti dopo le risse in paese all'interno degli... Cioè, secondo te sarebbe meglio che questi migranti andassero su un altro autobus da soli, sì o no? Sì, no, assolutamente no. Noi abbiamo quattro autobus di linea. Il problema è che tu lo volevi fare e poi ti sei tirato indietro. Dai, questa è la realtà. Ma scusate, chi siete? Perché tu mi hai detto Cruciani, ma io non so. Radio 24. Radio 24. Ah, ok, scusa. Okay. No, perché va bene lo stesso. No. Adesso ricordo perché qualche volta vi ascolto. Però, sindaco, assolutamente io non faccio nessuna marcia indietro. Tu volevi fare l'autobus separato per i migranti, perché è meglio così. Almeno stanno tra di loro, non rompono i coglioni ai nostri cittadini. No, Cruciani, mi dispiace. Non sono così piccolo. No, perché? Ma io non ho detto. No, lo ritengo un comportamento piccolo e meschino, non è questo proprio. Oh, t'hanno dato né della razzista, mia persona, t'hanno dato né del razzista. Della mia... Allora, né della mia comunità. Dunque, infatti, questi che t'hanno detto del razzista, vedremo che estremi ci sono, perché io non sono un razzista, sono una persona che cerca di svolgere un ruolo importante come sindaco di un piccolo paese, fa l'avvocato della vita e padre di tre figli. È arrivata una bomba atomica sulla testa, immagino. E infatti sindaco, sono 36 ore che non vito, non posso neanche andare a pisciare perché... sono subitato da accuse assolutamente, tu eri anche assolutamente chi, indegni. Per esempio chi ti ha accusato di cosa? Non ho capito. Di essere razzista e di fare apartheid del mio paese. Però, scusa, il mio paese, tu eri il mio paese è felice di avere tre ragazzi di questa struttura che giocano nella propria squadra di calcio e portano i colori del paese. Però scusami, tu giro. Sei uno di è quelli. È felice di fare tra i primi paesi in Italia la convenzione per il lavoro volontario. Però scusami un attimo, sindaco. Questi sono fatti storici che ha fatto il mio comune e la mia politica. Scusami, ma non è che sono, scusami Giuseppe, ma non è che sono falsi entrambi i racconti, da un lato quello dell'integrazione perfetta, quello può essere, e dall'altro però scusami, quello degli stupratori. Quello sì, scusami sindaco, la realtà è che tu sei anche uno di quelli che non vuole celebrare il matrimonio omosessuale, o sbaglio? Io ho fatto una dichiarazione cristiana dove ho dato una cristiana che vuol dire dichiarazione cristiana non ho mai di sentito difficoltà. Non ho mai sentito la dichiarazione cristiana in vita mia. Che è la dichiarazione esistono cristiana? Esistono le dichiarazioni, non le dichiarazioni cristiane. Come la dichiarazione sono cristiano e come tale, pur essendo un uomo ma separato che ha subito io sono cristiano sono protestante, io sono cristiano evangelico, non sono cattolico. Sei separato? Anche quella notizia era sbagliata anche quella. Allora, non ho capito. La legge dice che bisogna celebrare i cosiddetti matrimoni. Il comune farà tutto quello che deve fare. Però tu non li celebri. Perché? Come mi trovo in difficoltà prima di tutto con me stesso, che ma non perché? Sono riuscito. Perché è una situazione che... Cioè due lesbiche che si vogliono sposare, che male ti hanno fatto? Perché non ma vanno... nessun male, ma io infatti Perché non vuoi celebrare un matrimonio nel tuo paese? Perché? Ma io, a me non nessuno ha chiesto di celebrare. Metti che te lo chiedono. Nessuno, nel momento in cui me lo chiedono mi farò... Però non lo vuoi fare, non lo vorresti fare, tu lo deleghi. Mi trovo in difficoltà, personalmente mi trovo in difficoltà. Ma perché due per uomini i miei principi e i miei valori. I tuoi valori. Cioè, solo uomini e solo donne, mi troverei in difficoltà. Se questo accadrà, mi domanderò e farò quello che è mio dovere. La dichiarazione cristiana come sindaco e come la dichiarazione cristiana non l'ho mai sentita. Ciao, grazie, ciao. Fermi ciao, tutti, grazie. Qualche minuto e torniamo, fermi. La Zanzara è un programma della Madonna. La Zanzara. E ci si diverte a bestia qui alla Zanzara, cari amici miei, 800 24 00 24, oppure i vostri messaggi vocali su WhatsApp 393 71 71 701. Beh, siamo veramente al top. Allora, Maradona reclutato da quelli del sì, In realtà reclutato da chi? Da un'associazione che non sapevo nemmeno se esistesse io, i giovani giuristi democratici, che cazzo è? I quali beccano Maradona in palestra, secondo me non casualmente. Ma non i giovani giuristi, Ottavia! Una tizia, Ottavia Troili, che credo che sia una schermitrice, non so, che o comunque è una che pratica la scherma. Non la conoscevo io, una signora, una ragazza che becca Maradona e succede questo. Maradona: ciao, sono qui con il grande Maradona e sono del comitato dei giovani giuristi per il sì, e gli chiedo solo una cosa. Soltanto dire sì Bastansì. Grazie Diego. Grazie a te. Grazie al cazzo, no, grazie a te. Cioè, ragazzi, è incredibile, guarda, è incredibile. Cioè, adesso io ripeto, vi ripeto, Telese per il no, io non so ancora come voterò, ma non me ne frega niente se no, è che trovo... Ma anche tra l'altro, se avesse fatto Maradona per il no, non ci sarebbe... No, ma è un colpo di genio, tra l'altro. Almeno capire di che si tratta, sì... È quasi un colpo di genio, perché bisognava pure sfruttarlo meglio. Cioè, prendi Maradona e gli fai ripetere lo slogan del sì, Maradona. Cioè, pensate, che ne so, a Napoli, dove non so come siano i sondaggi, quale effetto molto può produrre. Ma male, ora recupera, bisogna vedere. Cosa perché Napoli è la città dove il no va meglio. Sai che bisognerebbe fare? Bisognerebbe fare delle telefonate a Napoli mandando l'audio di Maradona. Cioè, delle telefonate a Napoli. Mandando Maradona dice questo, vai, che cosa vota al referendum? Sì o no? Se lo dice Maradona, sicuro. Maradona, si meglio e Pelé, ho votato referendum solo per te. Olimpia si chiama poi, no Ottavia? Olimpia Troia. Olimpia. Va bene, procuriamoci il numero di questa qua, va, procuriamoci. Chiamiamola! Allora, dove andiamo? Giovanni Brescia, vai, Giovanni. Buonasera Cruciani. Dimmi. Volevo fare una domanda, dato che io sono abbastanza nuovo di questo programma, perché... Sei nuovo, quanti anni hai? Ho 20 anni. 20 anni, ottimo, dimmi. E sì. Dove eri prima? Praticamente... Prima che cazzo ascoltavi la sera? La sera cosa ascoltavi? La sera andavo a dormire presto. Sì, a dormire presto, ma che cazzo dici? Sì. A 20 anni, a che ora andavi a dormire? Che cosa ascoltavi alle 6:30 prima? Alle 6:30 ascoltavo Niente. Radio Number One. Number One, invece adesso... Vabbè, è cresciuto. Adesso mi ha detto di ascoltare Cruciani perché parlava un po' di figa. No, vabbè, parliamo di figa, allora. Adesso non esageriamo. Ogni tanto parliamo anche di figa. Allora mi hanno detto... Cioè, ti hanno detto ascolta Cruciani perché così si parla di figa. Sì, mi hanno detto così. C'è, cioè, il mio amico che me l'ha descritto così questo programma. Come Maradona. Sei deluso perché stasera non si parla di figa. Sono deluso, sì, però comunque credevo di rimediare con questa telefonata. Vabbè, adesso hai rimediato, ma non ho capito che cosa vorresti. Parlare di figa cosa vuol dire? È interessante. Non lo so, perché ieri c'era la trasmissione sulle Cougar. Sì. E quindi... ti sei arrapato con la Cougar. No, mi ha detto ascoltalo perché questo qua ne sa un casino, allora... Ne sa un casino di cosa? Di figa? Non ho capito. No, ne sa un casino di Cougar perché hanno fatto il servizio. No, ne sa un casino di Cougar. L'abbiamo intervistato, insomma, adesso è una parola grossa. Abbiamo chiesto alcune cose ad una signora di... Allora aspetta, fermo, di quasi... Ma che adesso non ce ne frega un cazzo, devi parlare col mio amico, ma che me ne frega a me? Ho detto che a 50 anni questa signora, una Cougar, insomma, si intrattiene almeno due volte a settimana con ragazzi di 30 anni. Magari tu sei anche un possibile candidato, ti interessa una di 50 anni? Ma io 20 anni comunque. E vabbè, che vuol dire? Ti interessa o no una di 50? No, per adesso no. Non ti interessa una di 50? Non mi interessa, tra 10 anni sì. Cioè, ti interessa che cosa? Una tua coetanea a 20 anni? Che tipo di donne ti piace? Mi interessa una mia coetanea, però comunque magari anche un po' più grande. No? Non sai che ti perdi. È una MILF ti interessa? Ecco, appunto, mi hanno descritto comunque che c'era una differenza tra MILF e Cougar. E se sentivi la zanzara di ieri sapevi tutto, vedi? Allora andrò a scaricarmi il podcast magari. Vabbè, dai. Giovanni, ciao, dai, ciao. Allora, ragazzi, dove andiamo? Andiamo a Salvatore, provincia di Modena, vai, Salvatore. Facciamo educazione, servizio. Salvatore, provincia di Modena, vai Salvatore, dimmi. Sì, ciao, buonasera Cruciani. Dimmi. Complimenti per la trasmissione. Non me ne frega niente dei complimenti, vai avanti Salvatore, dai. No, io vorrei fare un appello al governo. Un appello al governo, tu dove sei? Sei camionista? Che se mi dicono sono camionista. Sono camionista, sì. Dove stai adesso? Ora sono tra Reggio Emilia e Modena. Reggio Emilia, ma senti, dimmi una cosa, lascia perdere l'appello al governo. Che appello vuoi fare al governo? Dai, se tutti sti appelli. I lavori usuranti, mamma mia, amica, sì. ma che cos'è sta cosa? Io rumore, oh? I miei colleghi a 60 anni mi vengono a piangere, Cruciani. Ho capito, lavori usuranti, amico mio, ma fai il camion, qualcuno lo deve fare il camionista nella vita. Sì, adesso non voglio essere cattivo. 60 anni è dura, eh. Lo so, ma che devi fare? Uno fa il camionista, uno fa l'operaio in fonderia, uno fa il conduttore radiofonico, cioè fatica meno di voi, un altro fa il giornalista televisivo o il giornalista sulla carta stampata come Telese, un altro fa il cazzone, un altro non fa niente, uno è Gianluca Vacchi, è così, uno campa grazie alla famiglia che c'ha l'impresa, sì. È così la storia, ragazzi. Ma vuole grazie alla famiglia? Così c'è il mondo, perché la famiglia, che sei pure separato, che c'hai? Ma quando la famiglia la vede? Quando la famiglia uno la vede ogni 15 giorni. Ah, quando la vede, quando la vede. Ma scusa, tu vai a Mignotto ogni tanto? No. Mai. E le piazzole, sei molestato dai gay nelle piazzole o no? Sì, quello sì. Raccontami un po', perché io ogni volta chiedo questa cosa qua a ogni camionista. Raccontatemi se è vera questa storia, che noi ripetiamo ormai da anni, delle molestie, secondo me non sono molestie, che... No, non è che ti molestino, mentre dormi vengono, ti bussano sulla cabina. E che succede? Che chiedono? Dice, vuoi compagnia o meno? Vuoi compagnia o meno? I gay, cioè, e che poi alle due di notte bussano lì alla cosa. Ah, di... sì, tutta la notte. Ma non capito, tu ogni tanto si può anche pagare? Ah, non lo so. Qualcuno si fa pagare o no? Cioè, sono etero, eh? Sei etero, vabbè, a te piace la figa, mi pare chiaro. Ho capito, ma sono prostituti o sono gay così come... Cioè, no, sono gay. Ma qualcuno dice, guarda, ti do 50 euro, ti do 100... Fanno marchette. Sì, fanno marchette, esatto. Ah, allora si propongono, allora sono prostituti, non è gay. Sì, certo. E tu... Sarebbe come dire che uno ha un angolo, se c'è una nigeriana davanti a un falò, mica è metrosessuale che ti bussa al vetro, è una prostituta. No, questo ti gira, ti ronzia con la macchina intorno al camion, un paio di giri, poi ti avvicina, ti bussa e ti dice se vuoi compagnia. E tu hai sempre rifiutato. Marchettare. Ma, scusa, ma tra voi camionisti qual è la percentuale di omosessuali? Perché uno ha sempre l'idea che i camionisti siano, no? C'è un mondo fatto di maci, gente, capito? Con i peli su, tutti pelosi, capito? Con la panza di fuori, la canottiera. Sto scherzando, ovviamente, non è così. Però, Salvatore, voglio capire quanta percentuale di omosex ci sono tra i camionisti italiani. Cioè, c'è un'associazione, una volta c'erano i Los Padanos della Lega, te li ricordi, Luca? Sì, i Los Padanos. Certo, come dimenticare. Tra l'altro c'è un sindaco leghista che viene praticamente quasi cacciato dalla Lega in queste ore, perché ha deciso di fare il suo mestiere, cioè il sindaco che rispetta la legge, e in un comune... donna peraltro, a Oderzo. Donna. Nel nord, cioè credo in Veneto, ha praticamente sposato due donne o due uomini, adesso non ricordo. In ogni caso c'è la fatua di Salvini, cioè non è una che non rispetta i nostri principi, eccetera, eccetera, robe incredibili. Semplicemente perché questa qua applica la legge, cioè, applica la legge che prevede il fatto che il sindaco, sì, certo, può anche dire di no, ma uno gli chiede, sindaco, ci puoi sposare? Niente. Vabbè, lo Spadano sarà... donna. Non ho capito, Salvatore, se ci sono, che percentuale ci sono di gay tra i camionisti? Ma no, allora, tutti quelli che conosco io, un percentuale 0,01%. 0,001 che vuol dire? Qualcuno ogni tanto ha fatto un pompino ma non è gay, non ho capito. No, io dagli atteggiamenti che vedo quando siamo... Cioè non ce ne sono, secondo me ci sono e andrebbero anche, bisognerebbe che si riunissero in una bella associazione, omosessuali camionisti italiani, c'è cioè la vita di un camionista omosex. Tonino da Frosinone, vai, ciao Salvatore, buon viaggio, Tonino, vai. Ciao Pinuccio, ciao. No, Pinuccio un cazzo, io mi chiamo Giuseppe, non Pinuccio. Pinuccio è Pino, è qua. È Pinuccio, qua, ma lo dici a tua sorella o a tuo fratello, no, Pinuccio? No, non fa così, Pinuccio. Io voglio fare un piccolo appello ai cosi vegani, che l'uomo di merda è vegani, no? Sì, uomo di merda non lo so, adesso io non... I vegani, no, perché noi abbiamo di merda, cresciuto... No, è un uomo così, perché noi abbiamo cresciuto... Un piccolo asinello. Ma voi chi? Noi chi? Ma non è che parli a plurale come il divino Telma, parli a plurale. Cioè... No, noi. Noi, tu e alcuni amici avete cresciuto, avete fatto... Abbiamo cresciuto, è un piccolo asinello. E poi? Prima ammazzato e ci prima magnato. Ma l'avete ammazzato e ve lo siete magnati, l'asino? E vabbè, che ti devo dire, allora? No, io voglio dire, per esempio, i vegani, no? I vegani, no. Che vuol dire vegani? Tonino? Non sanno che cosa perdono, il sapore. Ah, l'asina, com'è la carne di asina? Ah, è bellissimo, è magro, è bellissimo. Vabbè, hai ammazzato, e come l'hai ammazzato questo asino? Scannato. Sì, ma come? Con le accette? Come l'hai scannato? No, il coltello. Ma ecco, ecco, mo mi rispondo l'altro. Ma come l'hai ammazzato? Come tagliato la gola? Come l'hai, esatto, gli hai tagliato la gola? Come hai fatto? Brava, sì, hai capito? Abbiamo visto morire? Non hai avuto un attimo di pietà quando gli hai affondato il coltello nella gola? Non esiste. Ma noi macellai l'ha fatto, capito? C'è un nostro amico in macellaio. Tu l'hai vista la scena? Certamente, io stavo anche là, stavo, no? Ho capito, ma quando hai visto questo asino, il sangue che sgorgava dalla gola... Non hai sofferto. Hai sofferto un po' o no? Io no, lui sì, però. Lui sì, vabbè, questo si sa che ha sofferto. Questo ma leggermente, Pino. Ma Pino, questo Pino ancora, Pino, ma che Pino cosa, Pino? Ah, Giuseppe, buono, ci vuoi bene, va bene, allora? Allora? Parliamo a lui, capito? Io, per esempio, voglio dire, per esempio, a queste persone... Se assaggiano i ragazzi gli asini, non sanno che cosa si perdono. Sì, ma l'hai già detta sta cosa, Tony. Cioè, i vegani dovrebbero assaggiare l'asino, ma i vegani l'asino non lo vogliono assaggiare e pensano che tu, descrivendo queste cose, per le cose che fai, sei un criminale di guerra. È quella la realtà. Il che, ovviamente, per carità, per me non sei un criminale. Certo, come descrivi la cosa, mi fai anche un po' schifo tu come persona. Cioè, non è che mi sei così. Ma non lo so perché, mi fai anche un po' schifo. Non lo so perché. Oppure a te no, però, certamente. Anche a me un po' mi fai schifo, devo dire. Non va così, Peppino, non va così, però. No, scherzo, dai, ciao Tony, ciao. Pronto Radio Cloaca Massima? Hai la zanzara? Vabbè, uguale. La zanzara. Oggi ho preso un porco, gli ho tirato un mozzico alla carotide, ho dissanguato, ho conservato il sangue perché me lo sono bevuto successivamente, me lo sono arrostito, me lo sono fraccato tutto e ho brindato col sangue e vino alla salute di tutti i vegani. Bacioni. Cruciani, io voglio Claudia. Ho 28 anni, ma faccio finta di averne 30, ma voglio Claudia. Quanto è eccitante, mamma mia. Comunque, se per favore mi mettete in contatto con la manager Cougar, dite che io sto, gli date il mio numero e so, ho 22 anni, studio psicologia, sono molto ingenuo e sottomettibile. Il problema della zanzara. Yale traffico. La zanzara. Allora ragazzi, sempre con Luca Telesi in collegamento da Roma, la zanzara fino alle 9:10. Giuseppe, provincia di Sondrio. Vai Giuseppe, vai, intanto procurate il numero di questa qua che ha cercato di reclutare Maradona tra il sì al referendum. La fiamma di Olimpia. Giuseppe, provincia di Sondrio, vai. Ciao Giuseppe, sono Giuseppe anch'io, mi chiamo. Io ce ne sono tanti di Giuseppe in Italia. È la prima volta che ti chiamo perché... Vabbè, allora dai. È un piacere. Niente, io volevo dire niente riguardo a quell'avvocato che parlava prima, che lui per gli immigrati prima si è poi espresso in una maniera. Sì, ma questa gente si tira sempre indietro, prima vuole fare delle cose e poi alla fine quando vede il caso invece, che scoppia dice no, ma io non volevo, eccetera. Vabbè, io invece queste persone qua, io proprio gli vieterei salire sull'autobus. Cioè tu a un extracomunitario, a un profugo, non lo faresti nemmeno salire sull'autobus? No, io non lo faccio salire, sali se tu paghi come tutti quanti i cittadini non normali. Vabbè, ma questo mi pare scontato. Stai a terra, punto. E invece, no, tu proprio non lo faresti salire proprio? Ma io in teoria per il modo in cui si comportano, no. No, cioè tu li lasceresti, diciamo, dove sono? Nessuno. Tu vai a piedi. Tu vai a piedi, cioè sull'autobus non puoi salire a piedi. Tu non, ma anche con la catena, io non è che sono assista, anche però, con la catena. Però Giuseppe, ma la catena no. La catena no. Mi hanno, come, scusa? Con la catena non li terresti con la catena? Beh, adesso dire con la catena mi sembra un po'... Però sì, però ci si può pensare, dici. Un po' pesantuccio, però... Però ci, guarda, si può pensare. Io ho un giro d'Italia, Giuseppe, ti dico che ne vedo di cotte e di crude. E questa gente qua veramente ha rotto, scusandomi il termine, i coglioni. Esatto. Ma questa gente ha rotto le palle, che vuol dire questa gente ha rotto le palle? Ma ha rotto le balle per il modo in cui si comportano, perché sono persone prepotenti, sono persone arroganti. Ma tu cosa hai sono visto? Chi è, che vanno qual è il rifugiato che ti ha fatto una prepotenza a te? Guarda, a te, io ti dico che un po' di giorni fa mi sono trovato in un centro team per poter cambiare il centro mio team. Contatto telefonico. E che è successo al centro team? E niente, insomma, c'era un po' di fila e tra l'altro c'erano questi tre che tra l'altro abitano anche lì vicino a questo centro. Vabbè, allora? Insomma, questi qua sono rimasti lì un quarto d'ora, 20 minuti, come tutti facevano la fila, arrivati a un certo punto questi qua sono andati via. Dunque? Dopo sono tornati dopo 10 minuti e nel frattempo sono arrivate altre persone, e tra la quale c'era anche una persona abbastanza anziana, abbastanza vabbè, avanti. Dunque? E quindi questa persona qua si è rivolta che era il suo turno, e questo qua gli si è rivolto ma con una prepotenza. Ma vabbè, amico mio, però raccontami una cosa più seria, no? Uno che voleva ha fatto una prepotenza, voleva saltare la fila al centro team. Questo qua gli ha messo le mani addosso. Vabbè, ma questo è un altro discorso, ma ragazzi, ma la gente che fa la persone che fanno i prepotenti per passare avanti, ce ne sono a bizzeffe anche tra gli italiani, dai, non diciamo cazzate, su. C'è un mio amico, uno che conosco, che li chiama beduini, non distingue, li chiama beduini, io li beduini li ammazzerei tutti, li butterei tutti fuori, uno per uno, dice così, è serio, ogni volta dico, ogni tanto ti chiamo. Dentro team, il signore lì col numeretto. Francesca da Milano, vai Francesca. Francesca, Milano, vai. Oh. Francesca, sveglia. Dimmi, dimmi, chi c'è? Allora. Dai, amica mia, su, parla. Pronto? Vabbè, ciao, ciao. Ecco il numero di Olimpia. Olimpia Troili. Come cazzo si chiama questa? Troili? Troili. È una che in una palestra incrocia Maradona. Da quello che mi dicono, forse lo dice anche lei, per caso, signor Maradona, e lo recluta a favore del sì al referendum. Maradona per Renzi. Chi è? Pronto? Ciao, sono Giuseppe Cruciani da Radio 24. Giuseppe, dimmi tutto. Ciao Olimpia. Caro. Senti, ma voglio capire che cosa è successo oggi. Guarda, in quella palestra. Dico la verità, io ho incontrato casualmente Maradona in palestra ieri. Come casualmente, scusa? Io ero all'Hilton e lui si allenava lì, per dirti, ero in palestra. Cioè non io sei andata lì a fargli dire sì al referendum? No, io ero lì che mi allenavo, l'ho visto. Sì. A margine del suo allenamento ho avuto 2 secondi per approcciarlo. E la prima cosa che ti è venuta come Olimpietaglio e gli ho chiesto di ripetere lo slogan. Non è assolutamente un endorsement che può considerarsi un endorsement ufficiale e cose varie. Olimpia, scusami un attimo, ma che c'entra Maradona con l'endorsement al referendum? No, tanto per capire. Cioè non io posso capire perché alcuni hanno titolato da questo, dal video, gran sostegno, strumentalizzato. Io hai cercato in modo, diciamo, in modo paraculo di accostare il sì a un grande nome riconosciuto a Napoli. No, io gli ho chiesto semplicemente di fare un gesto di simpatia nei miei confronti che lui in quel momento ha fatto. Se fosse nei tuoi confronti avresti dovuto dire basta Olimpia, e se dice basta un sì lo stai tirando dentro una campagna politica. Ma cosa sa Maradona del titolo quinto? Che cosa sa? Guarda, del quesito io non referendario. Ho idea, ma non mi interessa, io sinceramente l'ho presa come va presa la cosa. Olimpia, non sarebbe più, da un certo punto di vista, più onesto dire, guarda, siccome la campagna del sì, la campagna elettorale è fatta anche di queste cose qui, noi abbiamo cercato in maniera anche un po' temeraria, in maniera garibaldina, in maniera un po' piratesca, di mettere a Maradona, in bocca a Maradona la parola sì. Io il fatto è che non mi permetto di mettere in bocca ho capito, ma l'hai fatto, ma di fatto Quello che hai fatto semplicemente si è fermato a ripetere uno slogan. Ma capito, lui che ne sa di questo slogan? Gliel'hai messo in bocca tu questo slogan? Ma non è che io, cioè, non ho interpretato. Ma è una circonvenzione di incapace. È una circonvenzione di incapace. In palestra come un endorsement al sì. Ma quindi il poverino non sapeva nulla del titolo quinto? No, io mi sono presentata e lui... Ma che ne sa lui? Un'immagine pubblica di un certo tipo, presumo che sappia che cosa... Ma non sa nulla! Però scusami... Si è prestato a ripetere uno slogan... Ma ho capito, ma è circonvenzione di incapace! Ha usato Maradona per attirare l'attenzione sul referendum. Più strumentale di così, mi fa piacere che lo ammetti. Io l'ho detto chiaramente, è la tua frase di... Non ho inteso, scusami, per Olimpia, hai appena carino. Detto ho usato Maradona per attirare l'attenzione sul sia referendum. No, detto la mia intenzione nel postare in video in cui partecipo anche io era sicuramente l'attirare l'attenzione sul quesito referendario. No, sul sì, sul sì, è diverso. Ma non è il quesito. Vabbè, comunque, Olimpia, la cosa è questa, è che uno se fa un gesto di questo tipo, poi deve anche dire, sì, è vero, ho in qualche modo sfruttato Maradona per la mia causa, che non è il referendum in generale, è il sì. Cioè, non è che dici il referendum. Sì, per la mia causa, io nel video non ho accennato alla parola referendum. Ma come no? Basta. Ma è lo slogan del sì! Gli hai fatto dire lo slogan! Ma è lo slogan del sì! Per me il suo è un gesto di simpatia nei confronti miei e degli altri. Ma il tuo non manco te conosce! La già è questa, tu hai fatto ripetere a Maradona lo slogan del sì, senza che Maradona sappia nulla della riforma del referendum, del sì. Questo non ne ho idea! Ma come non ne hai idea? L'hai fatto! Ma che sei? Che sei? Una smentita ufficiale rispetto a ciò che sta o non sta. Ma io quello ora torno in Argentina fra un'ora, chi ne sa. Vabbè, ciao Olimpia, ciao ciao. Ma ciao ragazzi, ciao, ciao ciao. I'm a real wild one. Oh, ragazzi, quello che mi fa incazzare a me, quello che mi fa incazzare è che uno non ha nemmeno il coraggio di dire, beh sì, ho fatto una paraculata, ho incrociato Maradona, secondo me non c'era niente di casuale, ho incrociato Maradona e gli ho fatto dire basta un sì, punto, basta, solo questo, no, certo, era il referendum, non è che era un'altra cosa, dai, su, è una cosa pazzesca, dai. Che c'è, Donato, che c'è, Donato? Pronto? Che c'è, Donà? Dimmi. Ciao. Ciao, dimmi, Donà, dimmi. Allora, come che io da qualche mese sto pagando il canone? Stai pagando il canone da qualche mese? Alza un po' la voce, sennò non ti sentiamo, dimmi. Sto pagando il canone? Sì. Canone, questa è una cosa peraltro incostituzionale, che soltanto in Italia esiste che... No, in Italia no, esiste anche in altri paesi. Comunque, no, che te lo impongono con la bolletta dell'ENE. Questa è una cosa vergognosa, che già su questo Renzi dovrebbe andare in galera. Preso e messo in galera. In galera addirittura. Mi pare eccessivo, in galera addirittura. Perché? Ma io non capisco. Ma se io sono abituato per 40 anni a guardare, non so, le televisioni private, allora Renzi a me deve dare un modo che io possa vedere le televisioni private e dismettere, come si chiama, l'apparecchio. Vabbè, è una vecchia questione. Insomma, paghi il canone. Paghi il canone, allora? Lì c'è il comunista, vero? Come si chiama? Telese? Sì, è stato comunista, è comunista. Però è d'accordo con te sul re. Stavolta sono d'accordo con te, calmati. Non ti preoccupare, che quando crescerai andrai a vedere anche le altre cose sulle quali non ti sei trovato d'accordo con me, come queste ennesime che adesso ti dirò. Ma io sono d'accordo con te! E che tu scapperai perché non ti alleerai a me. Allora, tu devi venire con me, facciamo anche un piccolo referendum. L'apocalisse. Vuoi litigare lo stesso? Io ho capito, ma sto prendendo il segno di no, pace. Io voglio dirti, allora io e te andiamo, almeno per qualche milione di italiani ci sono, noi dobbiamo smantellare Rai 3. Qualcuno mi deve spiegare perché e tu metti da ringoppa sto cazzo. Allora qualcuno mi deve spiegare il motivo per cui c'è una televisione pubblica in mano alla sinistra, ai comunisti. Vabbè, ma è una vecchia storia, dai. La Berlinguer, ma quella testa di cazzo di Mannoni, uffa di bebe che sarà annunziata. Augias! Ma Renzi che sta un uomo povero di mente. Augias, io Augias non farei nemmeno parlare in Rai 3. Vabbè, adesso vuoi dire parlare o no, ma perché vuoi perché oggi ha scritto a fatto? Perché Rai 3 è anche mia! Rai 3 è anche mia! E vabbè, allora è mia anche il mio vicino di casa. Rai 3, allora 40 anni la sinistra, benissimo, la sinistra dica questa televisione pubblica è nostra perché siamo comunisti. Allora lo dicono. Beh, praticamente non è che non lo dicono, lo dicono. La struttura è nostra! È una struttura. È stata anche di mio padre quella struttura, è nostra! E allora come si fa a uscire da quella televisione? Come si fa a smantellarla? Come si fa? Allora lì c'è una nomenclatura di sinistra, allora è giusto che ci sia una nomenclatura di destra. Ma c'è, ogni tanto c'è stato quando c'era Berlusconi. Non c'è un cazzo! Vabbè, insomma, dai. Sono tutti comunisti. quel rotto in culo, quel strascio di Marrazzo. Ma che c'entra? Che c'entra Marrazzo? Si è bevuto bottiglie intere di sperma e l'hanno ancora reclutato per mandarlo a Tel Aviv. Ma ti rendi conto? Vabbè, ma che c'entra? Quello ha fatto degli errori. Ma ha fatto degli errori di vita privata. Cosa c'entra con quello? Con la Rai, dai, su. Allora, se l'avesse fatto una persona. Ma perché uno diretta, che va, uno che ha frequentato dei trans diretta, non può essere. Non può. No, non sono d'accordo. Non sei, c'è un'etica adesso. Non si adopano i soldi pubblici, quei soldi erano pubblici. Se non ma non è stato condannato per spreco di soldi pubblici perché andava a trans. Non dire stronzate, dai, non è stato nemmeno condannato, tra l'altro, per nulla. Dai. Allora, Marrazzo. Adesso che c'entra Marrazzo? Perché metti in campo Marrazzo? Vabbè, lasciamo stare Marrazzo. Io sono proprio, io ho una mia etica. Tutti addosso, ma io ho una mia etica. Il discorso qual è l'etica? Che non si va a trans, che cos'è l'etica? Ma si può andare dappertutto, ma non ottenere i soldi pubblici, quelli erano soldi pubblici. Ma sai quanti sono andato a buttare? Più di 100.000 euro con i trust. L'ha detto ma anche no, lei. Dove ma prendi questi soldi? A parte non si danno a una persona tutti quei soldi. Per me, un governatore di una regione massimo si possono dare 4.000 euro. Sei mai andato a trans? Sei mai andato a trans? No, io non sono andato a trans. Allora, ascolta. Noi dobbiamo, io non sto scherzando, noi dobbiamo abbattere, ma non ti piace Rai 3. Abbattere Rai 3, è fissato che bisogna abbattere. Fuori tutta quella gentaglia che fanno politica, non è la televisione democratica. Ma l'avete mai sentito come organizzano i programmi? Come organizzano? Avete mai sentito che mi sembra di entrare nello shuttle in quello studio quando c'è il canone? Ma stai parlando di una cosa vecchia, è la politica, la Rai, una cosa vecchia. Donato, devo fermarmi, ciao Donato. E che devo fare? Ma è una roba vecchia, dai. Ascoltare la Zanzara migliora la qualità della vita. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la Zanzara. Sono interprete di cinese, offro consulenza gratuita per chiamare le puttane cinesi. Siamo al top. Allora ragazzi, ancora con noi Luca Telese, se non sbaglio, Francesca da Milano. Vai Francesca, però prima di sentire Francesca, questa mattina scontro Luxuria Facci sul femminicidio. Ora ripeto, anzi no, ieri stamattina, scusa, ieri sera a Matrix, se non sbaglio. Allora, si parlava di femminicidio, un tema, come sapete, a me carissimo, cioè sostengo da tempo, ormai non è che l'ho detto l'ultima volta, ma l'avevo già detto, che il femminicidio non esiste, esiste l'omicidio. Gli uomini, è chiaro che ci sono più uomini che ammazzano le donne rispetto a quanto facciano le donne nei confronti degli uomini, ma quella è una questione, è come dire esistono gli stupri da parte degli uomini e non da parte delle donne sugli uomini. Quello mi pare una cosa orrenda, ma assolutamente scontata, assolutamente banale. Dire che uno deve pagare di più perché ammazza una donna mi sembra una follia inaudita, perché a questo porta la definizione di femminicidio. E poi in Italia i dati non sono così drammatici, cioè sono drammatici sempre, perché quando muoiono le persone sono sempre drammatici, però non sono, come dire, così da strage, ecco, la strage delle donne. No, purtroppo le donne vengono uccise in numero anche inferiore rispetto ad altri paesi. Facci Luxuria. A Torino una moglie ammazzata dal marito. Cioè, noi questi episodi li sentiamo. Ma lo possiamo mettere? Ti scongiuro, non andiamo sul femminicidio, ti prego. No, però dato guarda, perché se no ne faccio uno io, giuro qui. No, questo per molto di meno ci fanno chiudere anche oltre Grande Fratello Libre, ci fanno chiudere Matrix. Chiedo scusa. L'organo genitale femminile, perché gli uomini che dovrebbero amare questo, voi maschi chiamate, la chiamate cioè a Roma usano un altro animale, li usano la gattina, Pussy, la gattina. Insopportabile, mamma. Quindi. La gattina non si può sentire veramente, guarda. Vabbè, Francesca, allora? Allora. Io voglio dire questo, tutte le sere che Dio manda, io metto questo sedere sulla macchina per tornare a casa dopo una giornata di lavoro, per carità. Sì, bellissimo, allora? Bel lavoro che io faccio, però dopo mi devo servire che cosa? La Zanzara. No, puoi anche cambiare radio se non ti piace, puoi anche cambiare radio. Si deve sentire. Allora, cambia deve compagno sentire. Allora. Però io ti dico, no, il compagno è giusto, avrà i suoi motivi per sentire la Zanzara. Perché però gli piace tutto la quello. tutto quello che io però non posso accettare che dopo tutto questo sì. posso sentire delle altre cose, però non posso sentire che il femminicidio non esista. Certo che non esiste, ma io lo confermo, ecco. Non esiste, esiste l'omicidio, adesso. Non è che non okay, esistono gli omicidi delle donne, esiste adesso, l'omicidio. No, il fenomeno sociale, ma quale fenomeno sociale? Le donne purtroppo vengono sempre ammazzate da quando esiste il mondo, cioè, di che parliamo? Ok, adesso posso dire la mia opinione, la differenza vera. Ma la dici, ma non capisco che cosa vuoi dire però. E io ti dico soltanto che sono indignata, perché posso sentire che le puttane, posso arrivare anche a sentire, le so tutte quelle che hai detto. E indignati, ma chi se ne frega, ti indignerai, sai quanta gente c'è indignata. Le donne siano contente di sentire che sono delle puttane, posso sentire anche questo. Ma non posso arrivare a sentire che l'omicidio e il femminicidio sono la stessa cosa. Il femminicidio, ah no, non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa. La differenza, vuoi sapere qual è? Qual è la differenza? Dimmi qual è la differenza, dimmela. La differenza è che l'omicidio può essere un omicidio per difesa, può essere fra due invece, uomini con le invece c'è l'omicidio per gelosia, allora? L'omicidio per senso del possesso, per senso del possesso. Ma no, la donna è più fragile. Siamo arrivati alla scoperta. Francesca da Milano alle 20:41 okay, ci ha detto che la donna è più fragile dell'uomo. La donna è più fragile dell'uomo. Ma vai a fare in culo. Devi andare a fare in culo, chiaro. Devi andare a fare in culo. Perché? Ti dia fastidio perché sei un uomo. Ma e che fastidio, devi andare. Io non valori. Posso sentire queste puttanate. La donna è più fragile. Ma che cazzo puttane, vuol dire? Ogni cazzo di volta. Vado ai matti. La commissione si parla di puttane. Che abbiamo capito. Francesca, scusa un attimo, abbiamo abbi pazienza. Non mi fare incazzare, non mi fare incazzare. Dimmi una motivazione, non mi dire, non mi parlare la motivazione. Allora, la donna è più fragile dell'uomo perché vado ai matti. Che cazzo dice? È normale, è così. Allora posso dirti la mia opinione un attimo? Allora, con il massimo rispetto, tu sei una persona che ha successo. Una ma io che non faccio distinzioni tra uomo e donna. Allora, la provocazione fino a se stessa su queste cose. Non riesco a capire. Ma non mi dai una motivazione? Non mi dai una motivazione? Non mi hai detto nulla? Non mi hai detto niente. In genere sono dei balordi, la dinamica è sempre la stessa. Ma sono dei balordi, ma certo, sono degli assassini, non sono dei balordi, sono degli assassini che ammazzano le donne per mille motivi. Hanno un aggravante. Ma qual è l'aggravante? Ma ci sono già le aggravanti, esistono già. Esistono già, ma ci sono le aggravanti per qualsiasi cosa, per brutalità, per quello che ti pare. Ma vogliamo dargli un nome per... Allora, tu che ma perché vi appassionate a questa roba? Perché volete? Ma perché volete questa roba qui che sia allora, definita il femminicidio, porca la gran puttana, perché? Tu ami tanto, perché non le difendi? Spendendo, hai un ottimo. Ma che c'entra? Non ho capito, ma cosa c'entra difendere le puttane? Cosa c'entra? Sono succubi più delle altre di questo, del femminicidio. Ma che c'entra? Uccise per questo, solo perché sono. Ma amico mio, ma io sono a favore delle case chiuse, dei bordelli, amo tutte le puttane d'Italia. Ma che cosa? Per difendere, ma per difendere le cose, pazzo, Teresa, dicendo per favore, dita la tua. Dicendo che il femminicidio, cazzo, esiste, è un Luca, fenomeno la tua, che ha un divento... inizio alla fine, è un fenomeno ben definito, dilla tua. Non avere timore di difendere il vecchio razzista di Cruciani, il vecchio... Infatti non ti difendo, perché ha ragione Francesca, dai, ha ragione Francesca. In che cosa? Aspetta, Francesca, state zitta un attimo. È una tipologia di delitto scientificamente analizzata che nasce da un comportamento psicologico. No, ma non mi difendere, Francesca. L'unica cosa che ha che ti ama. Ma no, più vigliacco è un giudizio morale, è una dinamica criminale che si chiama femminicidio. Così come esiste e zitta un attimo. Sono pure d'accordo con te, Francesca, fammi parlare un secondo. Esiste l'infanticidio. Sì, perché è una dinamica di delitto che è ma che c'entra? Ma non è prevista la cosa. Esiste anche il femminicidio. Ma che esiste? Allora esiste il fatto di volerlo negare, perché magari tu non puoi accettare che ci siano degli uomini come te che fanno delle cose così balorde. Ma quali? Esiste, come me cosa? Cioè... Ma che dici? Sei impazzito? Non lo so, allora dimmi il motivo per cui lo puoi negare. Francesca, ma che ciao. Cosa hai detto? No, Francesca, adesso stai dicendo degli uomini come lui, che quindi non sta come lui, non sta dicendo come lui. Allora sei matta. Madrina. Prima attaccavi non sto perché dicendo lo come te, lui, però se lui che ama tanto le donne. Dai. Io non sto dicendo come sto dicendo che lui che ama tanto le hai donne. Hai detto degli uomini come te. No, non ho detto questo, ho detto degli uomini che sono uomini, quindi sono della tua stesso sesso. Ah, questo uomini dire. Come te in quanto uomini. In quanto uomini. Vabbè, Francesca, abbiamo discusso. Abbiamo Francesco da Cosenza, vai. Francesco da Cosenza. Cruciani, buonasera. Io non vorrei essere nei panni del fidanzato di Francesca, ma a parte questo, Perché? Che ha fatto quel povero? Ah, perché dici non vuole sentire la zanzara? Discutono, è bello, discutono su quella macchina con i esatto, bravo, sui bravo. Sedili, no, no, no, parlate... discutono, è lo spirito della zanzara. Vai, Francesco, le donne dimmi. Uccidono molto più degli uomini, basta parlare con gli uomini. Ma non esageriamo adesso, questo siamo... no, non dite cazzate, perché vivo con tre sorelle, tre cognate, tutte donne, non rompete i maroni. Vabbè, ma uccidono, in senso, allora così... Uccidono, guardi le statistiche. Rompono i coglioni, vabbè, ma no, le statistiche non dicono... Ma che c'entra questo? Dai, su. E come che c'entra? E che, cioè, non è che si uccide solo direttamente, si uccide anche indirettamente. Vabbè, poi, vabbè. Allora. Allora, in un momento in cui volevo dire questo, voi avete forse mai come adesso. Andiamo al sodo, amico mio, vai, dai. No, no, mi faccia parlare. Putin, mi faccia parlare, non parli. Tutti i giornalisti del mondo, Putin. Dicendo, non so più come comunicare con voi, parlate con i vostri paesi. A Manhattan, nel centro di New York, sventola un banner con la faccia di Putin dove c'è scritto pacemaker. In Russia preparano le riserve di grano. Sei partito da lontano, che cosa vuoi dire, amico mio? Voglio dire che dovete parlare della situazione che c'è nel mondo, di cosa sta succedendo. Vabbè, Francesco, vattene a casa. Vatti a fare un monte. Ma i maroni, Cruciani, devi fare il giornalista. Sì. Che mestiere fai tu? Che mestiere fai? Io quel mestiere fa cosa? Un cazzo, non fai un cazzo, che fai? No, io lavoro più di te, Cruciani. Cosa fai? Cosa fai? Non mi pare, stai al telefono con me da 20 minuti, dimmi. Faccio il nutrizionista. Oh, il nutrizionista, lui fa il nutrizionista. Adesso vanno di moda, vanno di moda i nutrizionisti che consigliano alla gente come mangiare. Ma dai, ma dai. Mi sembrava che avessi detto faccio, che ne so, l'autista del lato, mi faccio un bacio. Faccio la puttana. L'unica faccio cosa che ti piace se ti dicevo che il nutrizionista, puttana, il nutrizionista. Faccio il nutri per carità, con tutto rispetto, il faccio gli italiani, il nutrizionista, informate gli italiani, non va, vattene a casa, va, vattene a casa, va, vattene a fare un caldo, vattene a dormire, va, ciao. Ci voleva più tempo con il nutrizionista, lo chiamiamo domani, il nutrizionista, bellissimo. Il nutrizionista, però è il momento, ma non ho capito cosa è il momento, Non ho capito, voleva che informassimo sul mondo, però in chiusura di trasmissione, Carluca, ti sei perso ieri, è il momento delle puttane cinesi. Allora, la storia è molto lunga, un tizio ci ha chiamato dicendo che si è innamorato di una puttana cinese, di una prostituta cinese. E ci ha dato il numero di telefono, il primo giorno non ci ha risposto, il secondo giorno sì, cioè ieri. Era vero, cioè è il numero di una puttana cinese. Adesso c'è Andro qui con me, il mitologico Andro Mercù, eccoci. L'ho fatto entrare in studio, eccolo qua. Adesso stavolta parli tu con la puttana cinese. Via Ostiense, ci ha dato pure l'indirizzo ieri, eh. Andiamo. Va bene, vai. Non risponde. Pronto? Ciao. Senti, posso venire da te? Ok, va bene. Senti, quanto chiedi? 50. Quanto? 50. 50. Senti, ho una particolarità. Vorrei il culo. Culo niente. Come niente culo? Niente culo, non piace, niente culo. Ma sì, okay. dai. Niente, pago, capito, non piace. 10 euro in più, 60 euro il culo. Niente, 70 euro il culo. Dai. Ma no! Niente culo. Ma scusa, io non capisco una cosa, perché ste cinesi non fanno sta roba, è incomprensibile, Luca. Qualsiasi hanno dei principi, sappiamo. Ma perché ste cinesi non fanno l'anal? È una roba incredibile. Ma no, bisogna aspettare. Ma ieri ha dato pure l'indirizzo, questa qua ha dato l'indirizzo ieri, l'indirizzo via Ostiense col numero tutto. A domani! Ciao! Siete il peggio del peggio, fate schifo! Voi